Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata a tutti da Deborah Rosciani, benvenuti a Salva Danaio, ben ritrovati. Ieri la trasferta a Torino al Salone del Libro, oggi siamo ritornati in diretta regolarmente dagli studi di Milano e per concludere in bellezza la settimana, almeno speriamo, parliamo di mercati finanziari, perché quella che si chiude oggi è stata una settimana delicatissima per i mercati, che hanno inevitabilmente incrociato il loro andamento le novità politiche che sono emerse dall'ultima tornata elettorale a cui tutti abbiamo guardato con grande attenzione. Parliamo naturalmente dei risultati elettorali della Francia e della Grecia. François Hollande è stato eletto presidente della Repubblica francese, primo presidente socialista dopo 17 anni. Hollande si è rivolto subito all'Europa promettendo un nuovo inizio. Nell'elezione di questa nuova figura tutti vedono anche la fine dell'asse Merkel-Sarkozy che ha caratterizzato la politica europea degli ultimi anni. In Grecia il quadro che è emerso dal voto è stato molto frammentato, non si riesce ancora a formare un nuovo esecutivo, ci stanno provando tutti i partiti ma resta altissima l'incertezza sulla possibilità di formare un governo solido capace di portare avanti le misure pretese da Unione Europea e Fondo Monetario in cambio degli aiuti senza i quali Atene andrà insolvente. Sui pagamenti e insomma anche l'ultima tranche che la Grecia avrebbe dovuto ricevere è stata parziale, ne abbiamo parlato poco fa anche nel corso del giornale radio, e in più si allunga l'elenco di chi sostiene che, data la situazione a questo punto, l'uscita dalla Grecia dall'euro non rappresenterebbe più di uno spauracchio, insomma la zona euro può sopportare l'uscita dalla Grecia, stamattina lo ha ribadito il ministro tedesco delle finanze Schäuble, non possiamo forzare nessuno, anche di questo parlavamo nel giornale radio, l'Europa non affonderà così facilmente, ha risposto Schäuble appunto a un giornalista che gli chiedeva se la zona euro potesse sopportare un'uscita della Grecia e il ritorno di questo paese alla dracma. Allora, traendo spunto da tutte queste ultime notizie, domani Plus 24 del Sole 24 Ore dedica la sua storia di copertina ai mercati alla luce delle ultime novità politiche, con un focus particolare però sui movimenti delle valute, perché a dispetto della crisi feroce che ancora morde, della quale continuiamo a raccontare tutti i dettagli ogni giorno, a dispetto delle incertezze politiche ancora vistosissime, l'euro per la verità sta mostrando una forte tenuta sul dollaro e c'è qualche analista che per la verità vede addirittura sottovalutata la moneta unica europea e una sua potenzialità di crescita rispetto al biglietto verde e anche alle altre divise internazionali. Capocordata di questa copertina Andrea Gennai di Plus 24 del Sole 24 Ore. Andrea, ciao. Ciao, buongiorno a tutti. Bentornato. Grazie. E benvenuto e bentornato anzi anche a Corrado Caironi, investment strategist di NCA Ricerche Finanza.it. Buongiorno. Buongiorno. Ho buongiorno detto tutto correttamente? Sì. Perché non me lo dico, non mi dico. Sempre quando vado in diretta mi vengono i dubbi sulle cariche e sulle definizioni appunto corrette anche delle società. 800 24 00 24 è il numero verde per le vostre domande, se volete interagire con noi questa mattina. Da qualche tempo non ci occupiamo più di scenari di mercato, ma è in genere un tema che vi appassiona, che vi interessa molto, per cui come sempre siamo disponibili a ricevere le vostre osservazioni e i vostri punti di vista. Potete anche scriverci al 349-238-6666 all'indirizzo salvadanaio@radio24.it e potete andare anche a curiosare sul nostro profilo Facebook salvadanaio-radio24. La borsa stamattina invece come si comporta? Lo abbiamo anticipato anche in questo caso nel corso del giornale radio, l'apertura era stata piuttosto negativa per gli listini europei che naturalmente immediatamente avevano fatto segnare delle prese di profitto dopo i rialzi di ieri, oggi negative in avvio, dicevamo poi miglioramento nel corso di metà mattinata con Parigi che ancora subisce la flessione più pesante, -0,7, adesso Francoforte -0,27, Londra -0,44, Milano -0,18%. A Milano acquisti su Pirelli +4 punti, titolo ieri in forte flessione, oggi il mercato ci ripensa e torna a riacquistare il gruppo delle gomme, degli pneumatici e non solo. Mediolanum, dopo i risultati diffusi ieri che sono apparsi particolarmente convincenti al mercato, oggi il titolo cresce del 2,64%, Fiat +1,85%, A2A +1,64%. Per quello che riguarda i ribassi invece più forti abbiamo adesso Tenaris che perde il 2,68%, Mediaset -2,31%, STM -1,89%, ribassi generalizzati su tutte le banche, Monte dei Paschi che ancora subisce per le questioni legate alla recente bufera giudiziaria che ha investito Rocca Salimbeni, anche oggi meno 1,15%, in calo le altre banche. Unicredit perdeva terreno, adesso è a meno 0,49%, anche Piazza Cordusio ieri ha comunicato i risultati. In chiusura ieri il titolo ha fatto oltre 6 punti di guadagno e oggi torna a flettere leggermente. Ma la buona notizia arriva sul fronte del mercato obbligazionario, perché stamattina c'è stata un'asta piuttosto corposa organizzata dal Ministero dell'Economia. 10 miliardi di titoli messi sul mercato, 7 miliardi di euro di bot a 12 mesi, 3 miliardi di euro di bot a 3 mesi. Tutti ottimamente richiesti e quindi ben collocati, ma soprattutto sono scesi notevolmente i tassi di interesse rispetto alle tendenze che si erano ritornate a manifestare negli ultimi mesi. Per il titolo a 12 mesi il rendimento è stato del 2,34%, in calo di mezzo punto dall'asta di aprile, era al 2,84% il tasso su questo titolo, mentre per il titolo a 3 mesi il tasso è sceso allo 0,86% dall'1,24%, quasi 1,25% di aprile. Per cui una boccata d'ossigeno probabilmente per le casse del nostro paese, per le casse dello Stato italiano. Corrado Caironi, le posso subito chiedere un giudizio sull'operazione di questa mattina del Ministero dell'Economia? Ma direi sostanzialmente che il mercato sta leggendo in maniera positiva gli sforzi che stanno facendo i nostri politici e soprattutto direi che l'Italia in questo momento è condizionata molto dalla situazione europea. Quindi questo è un po' il dramma, cioè noi ci aspettavamo che ci fosse uno sganciamento, per esempio, nello spread tra la Spagna e l'Italia. In realtà la correlazione rimane altissima. E se pensiamo che, per esempio, in Spagna la situazione non è molto brillante, anzi direi che siamo forse ancora all'inizio per capire che cosa bisogna fare. C'è il problema della bad bank sul discorso immobiliare, ci sono tutta una serie anche di dati sui deficit che sono da sistemare. Ma questo Spagna, Francia ne abbiamo già parlato, abbiamo parlato della Grecia, ma rendiamoci conto che c'è ancora un Portogallo sotto la tenda ossigeno e c'è un'Olanda che anche lei è senza premier sostanzialmente. Quindi direi che l'Italia, al contrario forse gli altri paesi, come al solito un po' perché avevamo questo debito altissimo, per cui anche negli ultimi 2 o 3 anni siamo sempre stati abbastanza messi sotto il mirino, e dall'altra parte gli sforzi che sta facendo il governo, tutto sommato io penso che in realtà lo vedo abbastanza positivo, ecco, il processo, se non fosse appunto per questa situazione europea invece che vedo molto difficile, ecco. Allora magari approfondiremo poi le prospettive di questa condizione europea così complicata, anche alla luce, come dicevo prima, dei risultati elettorali dello scorso fine settimana, anche se molta reazione di mercato l'abbiamo vista. Per certi versi ci ha anche sorpreso, perché lunedì c'è stata una risposta ottima dai corsi azionari e poi un cambio di umore repentino nel giro di una giornata, anche lì qualche volta anche queste reazioni bisognerebbe valutarle con attenzione. C'è un ascoltatore che subito ci scrive, ma insomma non parlate di JP Morgan che se ne esce con un altro buco colossale, niente di nuovo sotto il sole. La truffa continua, speriamo di no, poi cercheremo anche di capire bene cos'è successo, che cos'è questo buco da 2 miliardi di dollari su quale appunto JP Morgan ieri sera ha fatto questa sorta di outing, qualche problema su contratti derivati, ancora una volta cose dalle quali noi comuni mortali dovremo cercare di star lontani, poi però queste situazioni si riverberano sempre sul mercato e guarda caso qualche titoletto ce l'abbiamo sempre anche noi in portafoglio, abbiamo imparato questa lezione con Lehman Brothers. Detto questo, chiusa questa parentesi, Andrea Gennai ci presenti la storia di copertina di Plus 24 di domani, perché questo esame sulle valute? Sì, abbiamo deciso di analizzare questo aspetto perché, come giustamente dicevi tu, il momento è veramente particolare. Abbiamo avuto un flusso di notizie molto molto intenso nelle ultime settimane, la questione greca, la questione spagnola, sembra che il vecchio continente possa precipitare effettivamente da un momento all'altro. Allora, visto che le valute sono un po' lo specchio dell'economia, di quello che accade intorno a noi, abbiamo deciso di andare a vedere cosa succede, per capire, anche per spiegare anche ai lettori come poi quello che succede sui mercati spesso è sganciato dal semplice flusso di notizie. Infatti, se noi andiamo ad analizzare le valute, soprattutto l'euro dollaro, che da solo rappresenta ben il 25% di tutti gli scambi internazionali, vediamo che ci sono non poche sorprese. Trovare oggi l'euro a 1,30 con, ripeto, questo flusso di notizie, la Spagna che sta per nazionalizzare o ha nazionalizzato una banca, la Grecia che non riesce a formare il governo, la stessa Italia che ha insomma delle previsioni di PIL molto contenute, insomma non abbiamo una notizia positiva se non il fatto che la Germania continua a fare la locomotiva motiva, ma da sola probabilmente non basta. Quindi, perché l'euro è a questi livelli? Perché il mercato valutario è un mercato sempre più complesso, anche per il piccolo risparmiatore, fatto da investitori istituzionali, dove effettivamente ogni società ha le sue previsioni. Quindi cercare di capire cosa succede sul valutario è un'impresa praticamente impossibile. Noi analizzeremo un po' di report di banche di affari che formulano le loro previsioni. Ecco, ci fossero due banche d'affari che hanno la stessa previsione. Niente, anche proprio totalmente contrapposte. Totalmente contrapposte, con dei range pazzeschi che oscillano da 1,20 a 1,40, insomma, che è un po' un margine di oscillazione. Però anche dico l'1,20 non è poi una cattiva notizia. C'è voglia di tenuta per quest'euro. Corrado Caironi, come mai sta tenendo così? Perché evidentemente anche le Cassandre più terribili, tutto sommato, questa disgregazione dell'euro non la desiderano. Diciamo, non essendo un esperto comunque di valute, io la lettura la faccio sempre dal punto di vista degli investimenti. In questo caso, in realtà, non vediamo un euro che, diciamo, abbia dei grossissimi problemi come valuta. Cioè, voglio dire, gli investimenti in euro stanno funzionando, i tassi ci sono, le politiche monetarie in questo momento tra l'Europa e l'America sono molto simili, con il discorso anche del TLTRO, cioè del rifinanziamento che ha fatto la BCE, per cui non vediamo delle grossissime probabilità. Se devo essere sincero, forse il fatto che sta condizionando in questo momento, almeno da un punto di vista degli investimenti, il cambio è la cessione dell'oro. Cioè l'oro sta segnalando in questo momento, passando da 1,640 a 1,650 e portandosi sotto i 1,600, che il dollaro effettivamente potrebbe avere una forza in più. Da che cosa è dato questo? Dalla capacità di crescita economica prevista sia dal Fondo Monetario, ma anche sostanzialmente lo stiamo leggendo un po' dalle analisi economiche, dove c'è un differenziale che potrebbe essere già per il 2012 circa di 1,6, che è parecchio, e quindi avvantaggia in questo caso probabilmente leggermente il dollaro. Ma dall'altra parte cosa vediamo? Che non ha convenienza ad avere un dollaro forte l'economia americana, avendo anche le elezioni davanti nei prossimi 6 mesi. Quindi questo effetto, secondo me, tiene condizionato il cambio all'intorno di questo 1,30. Di questo range, infatti. Questo è da un punto di vista degli investimenti. Oltretutto, come abbiamo spesso raccontato e come anche molti suoi colleghi ci dicono, le elezioni americane generalmente portano stabilità, almeno in un determinato periodo di tempo, quello preelettorale, corretto, sui mercati, quindi è anche abbastanza prevedibile, sì, che questo range appunto si mantenga inalterato, non vari di molto, appunto da qui fino a novembre, speriamo. Comunque abbiamo ormai 6 mesi davanti a noi. Ci fermiamo adesso perché c'è la prima pausa. 800 24 00 24, il numero verde per i vostri interventi, oppure scriveteci al 349 238 6666. Ci sentiamo tra pochissimo. E allora, ci siamo fatti venire in mente tante idee da poter approfondire nel corso di questa trasmissione. D'altronde gli scenari di mercato che sono maturati nelle ultime settimane si prestano a tante riflessioni interessanti. Prima cosa, stavamo ragionando su una domanda che ci ha posto un ascoltatore al 349-238-6666, ritornando sull'asta bot di questa mattina. Dice Antonio: ma perché il rendimento scende se lo spread comunque continua ad essere così alto sui 400 punti? Perché intanto il differenziale di rendimento del quale raccontiamo sempre è riferito al titolo con scadenza a 10 anni, Antonio, e quindi i titoli emessi questa mattina hanno delle scadenze brevissime, 3 mesi e 1 anno, per cui intanto boccata d'ossigeno nel breve termine per quello che riguarda le esigenze di rifinanziamento del tesoro italiano. Ma in ogni caso, più complessivamente, Corrado Caironi, significa che forse il mercato da qui ad 1 anno, per quello che riguarda, sì, le sorti dell'Italia, è tranquillo. Sì, soprattutto, ecco, con il finanziamento della Banca Centrale, che offre questo finanziamento all'1% e che quindi è già sostanzialmente tutte le emissioni, ecco, brevissime. Le banche hanno preso questi soldi, l'impegno era di farlo per anche sostenere i titoli di Stato del paese, corretto, di riferimento, e quindi probabilmente ancora si sente questo effetto. Per fortuna, diciamo, anche se le banche potessero fare un altro tipo di lavoro e girare questi soldi verso l'economia reale, ci farebbero anche una cortesia. Allora, Andrea Gennai, l'altro nostro ospite di questa mattina, insieme a Corrado Caironi di ricercafinanze.it, Andrea Gennai, collega di Plus 24 del Sole 24 Ore, ci ha presentato la storia di copertina di Plus di domani, focalizzata sulle tendenze della moneta unica europea che, tutto sommato, anche a fronte di una crisi devastante come quella che ci sta colpendo, ormai sembra che nessuno abbia più il timore di una Grecia che possa ritornare alla dracma, uscire dalla zona euro, eppure l'euro tiene nei confronti del dollaro. Ma qualche ascoltatore un po' si perplime rispetto alle riflessioni che abbiamo fatto e ci dice perché non fate il confronto anche con le altre valute, tipo il dollaro canadese, quello australiano, la moneta norvegese, lo yen. Nei confronti di queste altre divise, Andrea, l'euro è sceso di più che rispetto al dollaro? Sì, sono delle situazioni abbastanza diverse, perché dobbiamo ricordare che il mercato valutario ha una sua peculiarità, che è quella che ogni valuta deve essere scambiata nei confronti di un'altra. Quindi quando vado ad analizzare un cosiddetto cross valutario, cioè un rapporto di cambio, devo capire se una moneta rispetto all'altra sale o scende perché è più forte o più debole, ma devo capire cosa succede all'altra. La tenuta dell'euro in questo momento rispetto al dollaro è anche frutto di una debolezza del dollaro, quindi possiamo vedere la cosa da due punti di vista. Il dollaro in questo momento è oggettivamente debole per vari motivi, perché ci sono dei dati congiunturali ancora non perfettamente ripresa, perché c'è questo timore di questo brutto termine che si chiama Q3, quantitative easing, cioè una nuova iniezione di liquidità per risollevare l'economia, che ovviamente indebolirebbe il dollaro. Quindi stiamo parlando di dollaro ed euro, due monete che non è che se la stiano passando benissimo, e in questo modo l'euro leggermente sopravanza perché ha un rendimento anche in termini di tassi superiore al dollaro. Questo diciamo è il contesto. Nell'andare ad analizzare le altre valute bisogna ovviamente tener conto di quelle che sono le specificità. Per esempio il Canada è un paese che sta dando dei segnali sicuramente in termini di flessibilità, di ripresa, di rilancio, di forte dinamicità rispetto al contesto europeo, rispetto anche allo stesso contesto statunitense. Quindi ogni qualvolta dobbiamo analizzare una valuta, dobbiamo andare a vedere caso per caso. C'è però da fare una precisazione importante. Ci sono tutta una serie di valute che si chiamano valute legate alle commodity, cioè che sono valute che sono di paesi produttori di materie prime. Penso, non so, all'Australia, penso al Sudafrica, eccetera. Quando ci addentriamo in questo tipo di valute bisogna stare molto attenti, perché bisogna capire cosa succede in termini di produzione e di andamento di queste materie prime. Diciamo non è una fase di grande splendore, diciamo così, e ha vissuto dei momenti migliori, perché il trend delle commodities in questa fase è effettivamente un trend di debolezza, la congiuntura sta rallentando, quindi grande attenzione da parte dei risparmiatori quando si avvicinano a questo tipo di valute per capire cosa succede proprio a livello internazionale. Poi ci sono dei casi sotto gli occhi di tutti, la sterlina per esempio è fortissima in queste settimane, ha raggiunto dei livelli molto forti rispetto all'euro, quindi l'economia... Eppure anche la Gran Bretagna, adesso a prescindere dal fatto che fuori dall'area euro non è che stia andando poi così bene, a cosa si deve questa? Però evidentemente il mercato percepisce altre variabili. Innanzitutto l'Inghilterra è un paese molto più flessibile, meno legato ai vincoli anche europei, quindi loro stanno anche, abbiamo visto nei mesi scorsi, si stanno sganciando da alcune scelte di politica, sì, proprio anche in tema di finanza, di questioni strettamente finanziarie. Hanno la City londinese, che è una delle piazze finanziarie più importanti, quindi tengono a mantenere anche certi trattamenti. Hanno diciamo un bel coltello dalla parte del manico, diciamo in questo modo. Per cui il mercato valorizza anche questi aspetti, e oggettivamente poi gli ultimi dati britannici poi sono sicuramente un po' meglio rispetto all'Europa, quindi ci sono tante variabili da valutare. La sterlina in questo momento rispetto all'euro è sicuramente molto forte, quindi ogni valuta, ogni cross va analizzato per delle sue specificità. Corrado Caironi, le faccio fare il consulente. Noi generalmente quando ci occupiamo di valute cerchiamo di scoraggiare i nostri ascoltatori che magari si appassionano a questo argomento ad un investimento diretto sul mercato del Forex, perché è molto complesso, molto complicato, bisogna stare svegli giorno e notte perché è un mercato sempre in movimento, probabilmente l'unico fermo è l'unico che in movimento 24 ore su 24. Detto questo, per chi fosse interessato, intanto si può investire in valuta magari attraverso un fondo di investimento che già punta su mercati differenziati, sì, e quindi si prende già a riferimento le valute dei paesi sui quali si punta. Quali sono le raccomandazioni che possiamo dare agli ascoltatori che guardano con un certo interesse a questi movimenti, allora, i movimenti delle divise? Sì, la diversificazione valutaria è estremamente importante proprio negli investimenti, tant'è che quando creiamo un portafoglio cerchiamo appunto di dare una visione anche da un punto di vista valutario, dobbiamo controllare innanzitutto che tipo, su che riferimento di valuta ha un fondo su cui stiamo investendo. L'esempio più classico è: mi piace il mercato americano in questo momento, normalmente ce l'ho tutto completo in dollari. Però invece cambia molto quando io ho un fondo per esempio di paesi emergenti. In questo caso posso avere un fondo magari eggiato in dollari, quindi in questo caso eggiato in euro, e quindi ancora di più con due visioni diverse, oppure in valuta locale, e questo l'ho lasciato diciamo alle singole valute. Mi piaceva molto il commento delle materie prime, che ritengo importantissimo per quanto riguarda appunto le valute che erano state menzionate dal nostro ascoltatore. In realtà è proprio il mercato anche dei flussi valutari che condiziona il movimento, quindi non è solo una speculazione tra due divise il fatto di avere dei tassi diversi o comunque delle attese di crescita economica diversa, ma proprio la capacità di avere dei flussi dati dal fatto che io sono esportatore o importatore di determinate materie. Quello più classico in assoluto su questo tema è quello dello yuan, che sta diventando un punto di riferimento importante per quanto riguarda l'Asia e su cui abbiamo visto le case di investimento proporne dei fondi obbligazionari in questa valuta. E questo è in funzione del fatto di una difesa, per esempio, contro quello che è il classico investimento in dollari, che fino ad oggi è sempre stato un investimento estremamente importante, però abbiamo visto nell'ultimo anno, avendo un tasso così basso e limitato, si preferisce magari avere una divisa che in questo momento, come lo yuan, è abbastanza correlata, anzi ci si aspetta che sia anche addirittura positiva rispetto al dollaro e con un tasso di rendimento che invece è al 4-5%. Allora, volevo fare una piccola parentesi che non c'entra nulla con il tema che stiamo affrontando questa mattina, però mi pare doveroso per quegli ascoltatori che stanno guardando con un po' di apprensione a quello che sta accadendo a Monte dei Paschi da qualche giorno a questa parte. Da un paio di giorni Riccardo ci chiede, voleva sapere se ne parleremo prossimamente perché vuole sapere i mutui dei clienti che fine faranno. Riccardo, allora, la vicenda giudiziaria che sta capitando alla banca è una cosa vecchia di qualche anno fa sulla quale è giusto che la magistratura faccia luce. Non c'entra nulla con la gestione attuale, con l'attività tradizionale della banca. Chi ha un mutuo deve continuare a pagarlo, chi ha un conto corrente lo stesso deve continuare a gestire con tranquillità il rapporto con la banca. Forse più arrabbiati di tutti devono essere gli azionisti che hanno visto tracollare il titolo nelle ultime ore, ma questa è un'altra faccenda. E non lo so, Andrea Gennai da Toscano, vuoi dire qualcosa su questa vicenda? Tranquillizziamo. Devo dire che pure io sono cliente della banca e sono tranquillo, quindi ecco, messaggio rassicurante. È rassicurante, però Riccardo stia tranquillo. Noi abbiamo pensato se farla o meno, magari la prossima settimana valuteremo anche questa circostanza, però direi che dovete stare assolutamente tranquilli perché chi più chi meno, ogni banca in Italia ha la sua rogna, ma tutti i clienti correntisti hanno le problematiche normali di tutti i correntisti di una banca, quindi litigano con il direttore se questo non fa il prestito, se magari il conto corrente è troppo salato, ma niente a che vedere con le vicende giudiziarie. Quindi io per adesso mi sento di potervi rassicurare, poi del domani non c'è certezza, come diceva un noto personaggio del nostro passato. Ci fermiamo adesso, un'altra certezza che adesso abbiamo i suggerimenti perché in viaggio. Allora, stavamo nel frattempo ancora ragionando di materie prime e dopo i suggerimenti che ci ha dato Corrado Caironi su un approccio corretto di un piccolo investitore nei confronti di questo mercato, so che anche Plus24, Andrea, fa un po' un esame degli strumenti idonei a puntare su questo mercato, lo ribadiamo ancora, molto complesso, e quindi anche gli strumenti di investimento oltre ai fondi comuni normali che sono sorti appunto negli ultimi periodi, per la verità si sono un po' in termini di complicazione arrampicati notevolmente. Sì, diciamo, il quadro è veramente complesso. Intanto volevo dire una cosa sull'accesso diretto al mercato dei cambi, perché le piattaforme di trading online di qualsiasi banca oggi consente un accesso diretto, quindi chiunque oggi può operare direttamente sul Forex, il mercato dei cambi. Ecco, è un investimento diretto molto, molto pericoloso, nel senso che bisogna stare attenti perché ci sono delle logiche dei margini cosiddetti, cioè dove io entro con piccole quote, dove però il valore di questa piccola quota subisce delle amplificazioni enormi, sia a rialzo che a ribasso. Quindi bisogna stare molto attenti quando si entrano sul mercato valutario, perché io investendo 100 euro, ad esempio, è come se muovessi 1.000 o 10.000 euro. Quindi attenzione a muoversi direttamente su questo mercato. Per ovviare a questo problema sono stati lanciati dei prodotti. Gli ultimi molto diffusi anche sul valutario sono gli ETF valutari, cioè questi indici clone che replicano l'andamento delle varie valute. Sono strumenti un po' complessi, che però consentono effettivamente anche al piccolo risparmiatore con piccole quote di entrare su questo mercato valutario. Gli scambi si stanno intensificando, quindi significa che anche l'investitore italiano si sta avvicinando a questo prodotto. Ovviamente consigliamo sempre anche noi all'interno di Plus di diversificare ovviamente il portafoglio, però quando parliamo di valute di dedicare delle quote marginali, non posso dedicare interamente tutto il mio portafoglio a investimenti spesso rischiosi che poi hanno logiche da cui sfuggiamo completamente, certo, come percezione. Quindi muoversi con cautela. Corrado Caironi, quante puntate abbiamo fatto sulla diversificazione? Sempre, ogni volta si... Ma in realtà ancora oggi è uscita una bellissima ricerca un mese fa su alcuni portafogli, e abbiamo visto che la diversificazione e la non diversificazione di un portafoglio, quindi abbiamo dei fondi che sono chiamati focus, che hanno solamente 30-40 titoli, fondi invece che raggiungono addirittura migliaia di titoli in portafoglio, e abbiamo visto che comunque in ogni caso la volatilità dei due portafogli, benché siano magari degli indici molto diversi, la diversificazione comunque gioca un fattore chiave per avere proprio meno volatilità nel portafoglio. Allora abbiamo Marco da Genova tra di noi. Marco, buongiorno all'800240024. Buongiorno a voi. Ci dica. Allora, intanto io ho gradito molto la vostra disamina su tutte le varie monete e anche le commodities, però sarei curioso di avere una breve analisi sul rapporto euro-franco-svizzero, tenuto conto che adesso sì che c'è il rapporto fissato dalla Banca Centrale Svizzera, però mi chiedo fino a quanto la Banca Centrale Svizzera potrà comunque continuare a finanziare. A tenere sotto controllo. Sì. Va bene, grazie. Grazie molte Marco. Allora, Andrea Gennai, prendete in considerazione anche il rapporto fra la moneta unica europea e quest'altra divisa, considerata il porto sicuro più vicino a noi. Sì, assolutamente. Domani ci sarà proprio un focus specifico sul franco svizzero, dove analizzeremo la tendenza degli ultimi mesi e, come diceva l'ascoltatore, l'impatto che ha avuto l'intervento della Banca Nazionale. Che tra l'altro è stato preso fatto più di un anno fa, se non mi ricordo male. Sì, però la banca, diciamo, è una banca molto rispettata sul mercato, e quindi l'intervento ha avuto un effetto svizzero. Puntualissimo. Tra l'altro ricordiamo che tipo di intervento ha fatto. Sostanzialmente la Banca Centrale Svizzera ha detto: oltre questo range non permetto al franco svizzero di rafforzarsi esatto nei confronti dell'euro. Quindi praticamente l'euro si è inchiodato a 1,20 dopo che era sceso intorno ad 1, al rapporto di 1. E questa cosa stava danneggiando molto le esportazioni elvetiche. Quindi la banca è intervenuta con questo meccanismo, e effettivamente il risultato c'è stato. Cioè, sotto gli occhi di tutti, che il franco è inchiodato intorno a questa soglia. E noi riteniamo, poi ci saranno alcuni analisti che analizzeranno un po' lo scenario, che effettivamente questa mossa ha avuto la sua efficacia e potrebbe persistere anche nel tempo questa stabilizzazione del franco. Qualora dovesse rimuoversi, è plausibile che ritorni in campo la banca, che al momento ha molte armi da sparare. Quindi muoversi sul franco in chiave sicuramente difensiva, perché è una valuta, diciamo così, tradizionalmente difensiva, però operazioni speculative su una valuta come questa, che fino a un anno e mezzo fa erano all'ordine del giorno, oggi le vediamo con molta difficoltà. Cairone, le faccio fare il suo lavoro preferito. Adesso ci fa fare un giro per il mondo e ci racconta la sua asset allocation, che devo sempre appunto tradurre per gli ascoltatori che si indispettiscono con la terminologia inglese. Qual è in questo momento, prendo sempre a considerazione, c'è un investitore prudente, che è il tipico ascoltatore che può ascoltare Radio 24. Insomma, come può in questo momento cogliere delle belle opportunità di mercato, se ce ne sono in giro, proteggendo però il suo capitale, magari guadagnando qualcosina che non ci fa certo male? Sì, il portafoglio lo stiamo vedendo abbastanza difensivo, comunque anche sui portafogli aggressivi, cioè indipendentemente da questa situazione di opportunità che su alcuni prezzi si vede lampante, però stiamo comunque tenendo una posizione molto prudente. La parte maggiore del portafoglio è concentrata sostanzialmente sull'obbligazionario, c'è una parte addirittura di brevissimo termine che è ancora abbastanza liquida, e per quanto riguarda il risparmiatore italiano, noi abbiamo consigliato di stare tranquillamente su un conto corrente online dove i tassi sono ancora estremamente interessanti. I gestori, i suoi amici saranno molto c'è il fondo interbancario che comunque dà una garanzia, per cui in linea di massima lì siamo abbastanza sereni. L'altra parte invece del portafoglio obbligazionario invece stiamo guardando solo alla qualità, quindi sia governativi che corporate bonds, quindi emessi da società però di alto profilo, e sfruttiamo quei fondi comuni investimento che ormai quasi tutti hanno la possibilità di staccare la cedola, quindi avere questo flusso che è molto importante secondo me in una fase così delicata, dove il risparmiatore, insomma, avere un flusso è una cosa importante. Avete suggerito a suo tempo di investire anche sul BTP Italia? Abbiamo suggerito, però senza attenzione alle concentrazioni, cioè l'idea è: non c'è un problema di sicurezza. Questo è stato il messaggio che secondo me va dato. Cioè, noi in Italia abbiamo fatto dei calcoli, abbiamo visto anche a livello patrimoniale, insomma, l'Italia oggi ha tutti tutto il sistema è coperto, non, diciamo 8 trillion di ricchezza a fronte, il sistema italiano a fronte di un 1,9 che oggi è il debito pubblico. Sì. Per cui sono abbastanza sereno. L'idea è, attenzione, c'è molta volatilità, abbiamo visto gli spread che si muovono velocemente, quindi idealmente avere un paniere secondo me è una cosa preferibile rispetto ad avere dei singoli titoli, e poi c'è sempre questa emozione diretta sul titolo. La parte azionaria, che invece diciamo oggi l'abbiamo intorno al 33%, è divisa in 4 blocchi. Abbiamo un blocco che sostanzialmente sono large cap quindi high dividends, a grande capitalizzazione, mercati emergenti, healthcare e technology. Stiamo aspettando Facebook che arriva la mercato. Prossima settimana noi faremo una bella trasmissione anche a questo grandissimo debutto in borsa che è destinato a scompaginare un po' tante situazioni a Wall Street. Grazie ad Andrea Gennai, Corrado Caironi, per essere stati con noi. C'è una signora di Brescia che voleva intervenire per dire saluti all'ospite. La signora l'ha conosciuto personalmente, dottor Caironi, che cosa mi combina quando è fuori da Salvadanaio. Buona giornata a tutti, ci risentiamo lunedì.